Noi registriamo con piacere che in questi cicli di storia sono sempre molto frequentati, anche grazie al valore, devo dire, dei relatori che ringrazio. Ma è evidente che questa sera, la conferenza di questa sera ha un sapore del tutto speciale, perché 90 anni di smalterie, evidentemente stiamo parlando di qualcosa che sta nel tessuto profondo della nostra città. È evidente che Bassano ha avuto uno sviluppo economico particolare che non si può assimilare a quello di altre città vicine, come per esempio Schio, ma proprio per questa ragione, per la vocazione che è prevalentemente vocata al terziario di Bassano, la presenza delle smalterie indubbiamente ha rappresentato qualcosa di molto importante, certamente dal punto di vista economico, ma certamente anche da un punto di vista di maturazione sociale, perché tutti i riflessi, anche da un punto di vista per esempio sindacale, no? E a Bassano c'è una storia che è indissolubilmente legata tra la nostra città e appunto le smalterie. D'altra parte, in questo periodo felice per la storia di Bassano, vedo la presenza del senatore Fabis e è logico pensare certamente ai tre volumi, bellissimi volumi, sulla storia di Bassano, ma mi viene anche da pensare ad un momento per certi versi, anzi sicuramente drammatico, come la famosa e non dimenticata crisi degli anni 70, che ha visto tutta la comunità, dico il senatore Fabris per tutti perché ricopriva un ruolo così importante anche all'epoca, e certamente tutta la comunità che si è stretta attorno alle smalterie. Io mi ricordo, ero un giovane studente, ricordo come anche le scuole hanno portato all'epoca gli studenti all'interno delle smalterie, e che era un modo proprio per testimoniare la vicinanza. Ricordo anche il sospiro di sollievo quando poi in qualche modo però la crisi è stata superata e davvero è stata una boccata d'ossigeno per la città, aprendo delle prospettive nuove. Ma naturalmente di tutto questo parlerà lo storico, uno dei nostri punte di diamante, dei nostri storici che sono un orgoglio della nostra città, come il professor Favero. Naturalmente la presenza anche del direttore generale, se non sbaglio, dottor Favero, della Baxi, al quale adesso darò la parola per i saluti, però permettetemi prima di ringraziare intanto proprio la Baxi, perché grazie all'archivio storico della Baxi siamo riusciti a organizzare anche una mostra che ci sembrava anche importante come testimonianza, grazie anche a tutti i cittadini che hanno contribuito con le loro fotografie, con i loro ricordi, grazie al Museo Bonfanti che ci ha consentito di mettere in mostra una moto della Lavarda, a testimonianza di come appunto le smalterie siano intervenute in tanti settori, compreso quello di costruire il telaio di una moto Lavarda. Dunque, sono tantissimi gli stimoli, tantissime le ragioni che ci hanno indotto a questa conferenza, e davvero in questo modo pensiamo di rendere il giusto omaggio ad una realtà produttiva che oltretutto anche in un periodo così difficile come l'attuale riesce, credo, brillantemente a stare sul mercato, e nello stesso tempo a rendere omaggio alle tante generazioni che hanno dato il loro apporto alle maestranze, che hanno dato il loro apporto e che hanno fatto la fortuna delle smalterie, e credo che sia giusto ricordare anche il loro impegno, il loro lavoro e la passione con la quale hanno sempre sostenuto questa importante unità produttiva. Grazie. Per me è un duplice piacere essere qui questa sera. Mi chiamo Alberto Favero e come Giovanni siamo in qualche modo testimoni di un ricordo o di un'esperienza, in questo caso diretta. Non siamo parenti, quindi casualmente ci chiamiamo tutti e due Favero. Duplice piacere, innanzitutto perché questa sera conosco altre persone che hanno lavorato, che magari hanno avuto dei parenti in allora Smatterie Metallurgiche Venete, piuttosto che Brenta, piuttosto che Zanussi, piuttosto che Ocean, piuttosto che Baxi. Altre le rivedo con molto piacere, con molti di voi ho lavorato assieme e questo mi fa doppiamente piacere. Poi c'è un altro motivo, e ogni volta che chiedo informazioni delle Smatterie Metallurgiche Venete, chissà perché salta fuori qualche aneddoto, qualche racconto, qualche particolare di cui io assolutamente non ero al corrente. Dicevo prima, sono l'Averda, di fatto che lo stampato di quella carrozzeria del motorino non sapevo che fosse stato stampato nelle Smatterie Metallurgiche, e questo è uno dei tanti episodi che ci mancano all'albo, diciamo così, dei ricordi. Per cui anche questo per me è molto, molto caratterizzante e molto incentivante. Il terzo motivo, se volete, è un po' più personale, perché anch'io faccio parte della storia di questa azienda, perché ahimè ho compiuto 18 anni di attività professionale all'interno di questa azienda e insomma un pezzettino di storia lo rappresento anch'io. E quindi anch'io porto avanti la testimonianza un po' dopo gli anni 76 purtroppo, però insomma... attenzioni, tensioni eccetera sono state vissute anche nei giorni più recenti, come sanno molti anche dei presenti. È un'azienda che secondo me ha saputo rinnovarsi, quindi dagli anni 24-25 per inciso, oggi o in questi giorni ricordiamo il momento della fondazione, 1924. Il prossimo anno è nostra intenzione ricordare invece l'avvio dell'attività, che è avvenuto nel 1925. Quindi anche a livello di azienda faremo una mostra, coinvolgeremo molti dei presenti in tutto questo, perché è giusto avere un ricordo e che ci siano delle testimonianze. Però, come dicevo prima, è un'azienda che ha saputo rinnovarsi, cambiare pelle, ha cambiato moltissimi prodotti. Credo che tutti noi in casa abbiamo qualcuno dei prodotti che è passato attraverso questa azienda, quindi una stoviglia, il famoso Due Leoni, l'avete visto prima, una cucina, le cucine economiche, piuttosto che una vasca da bagno e tanti altri oggetti. Do per scontato che ognuno di voi a casa vostra abbia una caldaia Baxi, perché questo era un motivo, era sicuramente un requisito per essere qui questa sera. Giusto. Battute a parte, è un'azienda che sicuramente ha saputo rinnovarsi, però come si ricordava già qualche anno fa, deve la sua forza a quello che viene considerato il capitale umano. Ecco, le risorse umane di questa azienda hanno sempre fatto la differenza, e vi assicuro che fanno differenza anche nel contesto di un gruppo di cui noi facciamo parte, e che fanno sì che manteniamo quella competitività che chiaramente è sempre più necessaria. Competitività che vuol dire anche inventiva, capacità di rinnovarsi, capacità di proporre soluzioni nuove. Ecco, quindi per me è innanzitutto un grazie verso di voi, perché voi avete assicurato questa testimonianza, e chiaramente ci diamo da fare perché questo possa continuare. Allora, prima di lasciare la parola a Giovanni, volevo ringraziare il professor Tessarolo, che nei giorni scorsi mi ha stuzzicato proprio per far parte di questa, diciamo così, famiglia allargata, famiglia nel tempo allargata, e per propormi e proporre chiaramente il ricordo di questa azienda che sicuramente merita di essere riportata all'attenzione continuamente. Grazie. Grazie. Grazie sia Carlo Ferraro che ad Alberto Favero per la presentazione. A me fa molto piacere tornare a parlare delle smatterie. Dopo tema che abitando a Bassano e da storico economico a me affascina da almeno 10 anni. Sulle smatterie è stato scritto molto negli ultimi anni. Voglio ricordare soprattutto il lavoro un po' pionieristico fatto con lo smalto della ruggine, con il gruppo formato da Stefano Berton, Roberto Milani e Denis Vidale, perché lì si è provato a raccogliere un po' di materiale. Quel libro, dopo aver fatto un po' di storia dell'azienda, si concentrava sulla fase della crisi, la messa in liquidazione e quell'anno terribile che fu il 1976 per Bassano. Poi l'azienda Baxi ha finanziato un libro sui successori delle smalterie. Oggi invece vorrei parlare di quello che è stato prima della crisi, arrivando in finale alla chiusura delle smalterie propriamente dette, ma senza entrare troppo in quello che è accaduto dopo. E d'altra parte, sapendo, sia stato preavvertito sia da Francesco Pesarolo che da Stefano Pagliantini, che questa sera ci sarebbero state molte persone che hanno vissuto direttamente quegli anni e che inevitabilmente sanno molto più di me di quello che è accaduto, mi fermerò soprattutto a leggere la storia dell'azienda dal punto di vista propriamente aziendale, cioè dal punto di vista della famiglia, degli imprenditori e dei manager, e meno mi soffermerò su quello che invece è stato anche già in parte studiato, cioè sul ruolo del sindacato, sul ruolo della forza lavoro in sé, perché mi aspetto che poi ci siano numerosi interventi che esprimano meglio di quello che saprei dire io l'altro punto di vista. Questo non vuol dire che non vedremo in maniera anche critica il comportamento, diciamo, della direzione aziendale. Allora, come si strutturerà il mio intervento? Cercherò di stare dentro i mezz'ora, 40 minuti. Da prima vi spiego quali sono gli interrogativi che provo a sviluppare, che mi hanno spinto a rivedere o rimettermi sopra questa storia delle smalterie lunga e non solo la fine, diciamo, della loro presenza a Bassano. Poi proporrò un tentativo di periodizzazione, le fasi in cui l'azienda è stata passata. Gli storici sono fanatici per periodizzare, se non mettiamo dei paletti nel tempo non siamo contenti, e proverò a tirare alcune conclusioni che, anche se a mio parere dicono qualcosa anche sul presente, da bravo storico eviterò di far figurare come attuali, ma le limiterò all'interpretazione storica. Allora, intanto di cosa stiamo parlando? La smalteria metallurgica veneta, questo era il nome ufficiale dell'azienda, società per azioni, viene costituita nel 1924 da investitori esteri, in maggioranza la famiglia Vesten, e avvia l'attività, come si diceva, nel 1925. È in realtà la società italiana del gruppo, di quello che possiamo chiamare il gruppo Vesten, che possedeva numerose fabbriche, più di una decina in Europa centro-orientale, ed era specializzato nella smalteria della lamiera stampata. I Vesten erano una famiglia sassone di imprenditori filo-asburgici in origine. L'azienda, da loro fondata in Italia, funziona, addirittura si espande e comunque resta florida fino più o meno a metà anni 60, la gamma di prodotti si amplia nel corso dei primi 30-40 anni, ma a partire appunto dalla fine del boom economico comincia a soffrire la concorrenza di produttori specializzati. Anticipando quello che dirò, no, cosa succede? Le smalterie producevano da stocca dei motocicli ai cassoni per frigoriferi, agli elmetti per i soldati, con stampando e smaltando, nascono i produttori che fanno solo lavatrici, solo frigoriferi, e si fanno il cassone appositamente. Su questa concorrenza specializzata le smalterie faticano a stare. Secondo punto, sempre anticipando quello che verrò dicendo, i tentativi di ristrutturare l'azienda a partire dagli anni 60 falliscono, anche perché gli imprenditori sono bloccati nei loro tentativi di ristrutturazione da incentivi dati dalla politica. Vedremo di che cosa significa questo. Se vogliamo, ogni soggetto è intrappolato un po' in un circolo vizioso. Sta di fatto che negli anni 70 appare chiara la strategia, a posteriori appare chiara all'epoca meno, ma la strategia dei Vesten. Il fatto che la strategia di Vesten diventa quella di disinvestire da Bassano. E nel 75 lo fanno nel peggiore dei modi, ovvero chiudendo improvvisamente l'azienda tre giorni prima di Natale, due giorni prima di Natale, arrivano le lettere di licenziamento a più di 1300 operai. Altro punto, sempre anticipando, in consiglio d'amministrazione la chiusura dell'azienda è giustificata con le enormi perdite messe a bilancio nel 1975, perdite che l'inchiesta del Ministero delle Finanze fatta 5 anni dopo rivelerà essere un falso, quindi appositamente messa a bilancio per poter chiudere. Allora, mi siedo perché sta in piedi per 30-40 minuti. Quali sono le domande? Allora, questa è la storia, l'avevamo studiata assieme, la conoscevo, perché tornarci sopra? Allora, la prima domanda che mi sono fatto è: nelle diverse fasi, le smalterie attraversano fasi diverse in cui le strategie dell'azienda sono diverse, quali strumenti contabili da una parte, cioè come si misura il fatto che l'azienda vada bene, e quali strumenti retorici, cioè di motivazione, di presentazione dell'azienda, si usano? Possiamo dire che le strategie, quali sono queste strategie che io ho identificato, e passiamo alla periodizzazione. Dal 25 all'inizio degli anni 50, fondamentalmente l'idea è quella classica: abbiamo una bella tecnologia, stampaggio e smaltaggio, con cui possiamo fare molti prodotti di tipo diverso. Gli economisti la chiamano diversificazione correlata, ovvero con la stessa base tecnologica faccio molte cose diverse: le pentole, gli elmetti, i cassoni, le scocche, gli alambicchi per la distilleria, moltissimi oggetti diversi, e funziona fino agli anni 50. Poi negli anni 50, appunto, la concorrenza si fa più forte e la strategia dell'azienda diventa quella: proviamo ad aumentare la produttività e ridurre i costi. Grandi investimenti in meccanizzazione, catene di montaggio, ma anche in razionalizzazione. Una delle prime aziende ad avere un centro di elaborazione IBM dentro per misurare i tempi di produzione di ogni, non pezzo, proprio ogni fase del pezzo. Purtroppo anche questa non funziona. Non funziona, lo vedremo dopo, perché, ma fondamentalmente perché il vero motivo dei problemi dell'azienda non era la bassa produttività. Allora si passa a dire: vabbè, vediamo quali prodotti sono più competitivi, e qui entra l'idea di tagliare alcuni reparti. Per vedere quali sono più competitivi devo usare un'analisi dei costi, in particolare l'azienda comincia a disaggregare il fatturato per prodotto e per testa di operaio, cioè quanti operai lavorano a quel prodotto, quanto ne vendiamo, vediamo se ci stiamo. Quindi la competitività viene misurata in maniera diversa. La cosa interessante è che alla fine, visto che non si riesce a selezionare i prodotti più competitivi, l'ultima strategia è una strategia di fuga, in cui lo strumento diventa il bilancio, in cui bisogna dimostrare che non ci si può stare dentro e bisogna chiudere. E gli ultimi bilanci degli ultimi 3 anni sono costruiti in questo modo, per mostrare che l'azienda non ce l'ha più. Questa è la prima domanda. Seconda domanda, che si lega alla prima: abbiamo visto che si succedono diverse strategie. Quanto hanno a che fare con la formulazione e la messa in opera di queste strategie gli attori, le persone che decidono dentro le smalterie, che sono i membri della famiglia Westen, che muoiono ed ereditano, quindi c'è un problema di successione imprenditoriale dentro l'azienda, e i manager, che all'inizio sono scelti fondamentalmente perché sono quasi parte della famiglia, ingegneri di fiducia che di solito vengono dalle altre fabbriche dei Westen, e alla fine invece cominciano a essere scelti sempre dalla famiglia. La famiglia non arriva mai a prendere davvero le distanze dall'azienda, ma invece cominciano a essere scelti per le loro competenze. Badate, non che prima, anzi probabilmente i manager degli anni 50 erano persino più capaci data l'epoca degli ultimi, ma perché se voglio disinvestire voglio un manager che sappia fare in modo non permettergli di andarmene. Se voglio chiudere alcuni reparti prendo qualcuno che già da qualche altra parte ha chiuso alcuni reparti. Quindi la mia domanda qui è: come si incrocia il fatto, il passaggio di padre in figlio, in realtà di zio a nipote, da zio a nipoti, all'interno della famiglia proprietaria, con i cambiamenti invece a livello di dirigenza? Per rispondere a queste domande ho usato le fonti che avevamo usato anche per quei libri, cioè i bilanci innanzitutto, le indagini fiscali, le relazioni del sindacato, non poche, le interviste rilasciate sui quotidiani, soprattutto nei momenti di crisi, alcuni documenti che è stato possibile tirar fuori dall'archivio della procedura fallimentare, in particolare i libri matricola che Roberto Milani, coautore di quel libro, è stato capace nella sua tesi di laurea di trascrivere integralmente, senza i nomi perché non gli è stato possibile farlo per motivi di tutela della privacy, ma con le mansioni, il salario d'ingresso, la data di nascita, che permette anche di scoprire alcune cose. Tutti questi dati sono disponibili nelle tabelle, dove sono? Tabelle assieme alla bibliografia sulle smalterie che sono sul tavolo vicino Stefano, sul tavolo dietro, sono stati messi sul tavolo dietro, ce ne saranno una quarantina di copie per chi fosse interessato ad avere qualche dato in più. Torniamo alle smalterie. Allora, se questo è il quadro che voglio provare a dare, proviamo a entrare nel dettaglio. Intanto, chi sono i Vesten? I Vesten sono una famiglia originaria di una regione che si chiama Lusazia, la Bassa Sassonia, che oggi è parte della Germania, ma all'epoca era una parte dell'attuale Germania sotto l'impero asburgico. Quindi sono una famiglia filo-asburgica. All'epoca parliamo del primo 800. Il fondatore è Adolf Vesten, e poi gli succedono i fratelli minori di parecchi anni, Peter e August. Nel 1858 i Vesten partono da una fabbrica situata appunto a Neschwitz, in Lusazia, nella Bassa Sassonia. Nel momento in cui la Germania si unifica, il cosiddetto Secondo Reich, quello di Bismarck fondamentalmente, nel 1871, i Vesten filo-asburgici si ritrovano a vivere all'interno dell'impero tedesco e spostano le loro fabbriche dentro l'impero asburgico. La prima in Stiria a Knittenfeld nel 1873, e da lì cominciano a costruire un impero nell'impero, che è un monopolio nello stampaggio e nella smalteria di oggetti metallici. Sono gli unici, per una cinquantina d'anni, sono gli unici in Europa centrale a produrre quel tipo di prodotti. Avevano il segreto dello smalto, come lo chiamano loro. Il centro della loro attività si sposta ancora verso la fine dell'Ottocento, nel 1894, Celje, attuale Slovenia. In tutte queste città c'è oggi una fabbrica che produce alcuni dei prodotti che qui da noi sono sviluppate le cagaie. Nelle fabbriche polacche, per esempio, sono rimasti i cassoni, per cui è rimasta la fabbrica in qualche modo sopravvissuta. E da lì stabiliscono fabbriche in tutto l'impero asburgico: Ligetfalu in Ungheria, Budweis alla tedesca, ma oggi České Budějovice in Repubblica Ceca, Boemia. E poi nella Polonia asburgica, perché la Polonia era stata spezzata in tre in realtà, anche se ci si ricorda Germania e Russia, l'Austria asburgica si era presa a pezzo, in due città, a Olkus e Tolbro, dove in piazza c'è un monumento a Peter Vesten, che ha fondato la fabbrica e ha dato lavoro ai dipendenti. Il problema è che con la prima guerra mondiale l'impero asburgico si dissolve, aumentano i confini, aumentano i dazi protezionistici, per cui non sempre il mercato di cui la fabbrica godeva è raggiunto. Questo spiega la fondazione di nuove fabbriche nel 23 in Romania, nel 26 addirittura a Rostov in Ucraina, con un accordo con Lenin, in seguito a un accordo con Lenin, e nel 24 c'è bisogno di entrare in Italia perché sono falliti nel 23 i negoziati commerciali tra l'Italia e l'Austria. Quindi le fabbriche austriache non riuscivano più a vendere sul mercato italiano. Dopo il 45 la maggior parte di queste fabbriche verranno nazionalizzate, con l'allargamento del blocco comunista fino alla Cortina di Ferro. Alcune verranno nazionalizzate con rimborso, altre senza rimborso. A quel punto, nel 45, i Vesten decidono di istituire due finanziarie, Interkont e Universa, a Vaduz, nel Liechtenstein, per poter spostare più agevolmente i capitali nel momento in cui i paesi diventassero paesi a rischio. Se volete, questo è un elemento che prepara il terreno a quello che accadrà dopo. Allora, siamo arrivati a come i Vesten arrivano in Italia. Le smalterie fondate, istituite, se volete, costituite nel 24, costruita la fabbrica nel 25, vengono localizzate a Bassano per fondamentalmente due motivi. Il primo è accesso logistico. C'è una ferrovia facilmente collegata a tutta la rete ferroviaria nazionale, ma per questo si era già pensato a Castelfranco, si era pensato a Sesto San Giovanni. L'altro punto per cui Bassano viene scelta, e qui va dato atto all'amministrazione comunale di una politica lungimirante, è che il comune mette sul piatto il terreno ceduto a titolo gratuito, costruisce il comune il collegamento ferroviario tra la fabbrica e la stazione, e anche del denaro sonante per permettere la costruzione dello stabilimento. Il problema qual è? Bassano era un paese, non tanto Bassano ma i dintorni di Bassano, soprattutto la Valsugana, di forte immigrazione fino alla prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale i confini di molti paesi si chiudono e il numero di disoccupati a Bassano aumenta. Per risolvere il problema della disoccupazione è necessario attirare investitori industriali. Allora, a capo della società italiana dei Vest viene messo uno dei fratelli maturi della famiglia all'epoca, August, che nomina direttore generale Nicolas Lesle, ingegnere, amico di famiglia, il direttore che era già stato direttore generale a Celie, nella sede centrale, quindi uomo di totale fiducia, non un parente ma quasi. Direttore amministrativo invece è Ugo Sostero, bassanese, nel senso che viveva a Bassano, per avere, mischiare nella dirigenza personale locale e personale estero, cioè di fiducia della famiglia. Quello che accade negli anni successivi è una progressiva diversificazione del prodotto dentro una struttura industriale completamente integrata. Si parte dalle pentole in acciaio smaltato nel 25, poi si passa a usare lo stagno nel 28, l'alluminio nel 31, l'acciaio già negli anni 30 e nel 33, ma anche insegne, quelle da attaccare fuori degli studi professionali, contenitori per il latte, quindi non più solo pentole, vasche da bagno, primo esperimento nel 28 ma molto di più nel dopoguerra, caldaie già nel 1930, ma di nuovo come esperimento, strumenti per farmacia e distilleria, e questo vi dice che l'azienda era anche attenta alla sua filiera locale, cioè le distillerie a Bassano avevano bisogno di strumenti che la smalteria produceva, ma anche nel 35 con la guerra d'Etiopia e poi nel 40 con l'entrata della seconda guerra mondiale, elmetti e granate. Leggenda vuole, magari anticipo qualche episodio che ho ascoltato a mia volta, che per lo stampo per gli elmetti fosse lo stampo adattato che si usava per fare i vasi da notte. L'azienda si allarga anche sul mercato nazionale, mette un ufficio vendita a Milano nel 36, uno a Roma nel 40 e stabilisce forti connessioni industriali. Fa una joint venture con quella che oggi chiameremo una joint venture con la SADE, la società adriatica di elettricità, ricordo che le società elettriche erano private fino al 63, per costruire la centrale idroelettrica a monte lungo il Brenta, che poi comprerà, di cui comprerà la partecipazione totale, e per una fonderia. Ma più importanti sono le connessioni a valle, cantieri navali, perché producevano tutte le cucine economiche per le navi, che all'epoca erano ancora i transatlantici. L'edilizia, ovviamente, ancora oggi la Maxi conta sui prodotti per la casa. L'industria chimica, l'esercito, ovvero si integra molto bene in quello che è il complesso militare industriale che il fascismo sta costruendo nel corso del periodo tra i due. All'epoca quello che viene usato, l'indicatore che viene usato per misurare la performance dell'azienda, è il numero di kilowattora per addetto, per dipendente, cioè quanta energia usa l'azienda, la fabbrica, rispetto al numero di operai. E il numero di kilowattora per dipendente cala nel corso degli anni 30, che ci dice che questa diversificazione costa anche un aumento dell'intensità di lavoro, e poi a partire dal 35, dove si attesta attorno ai 1000 kilowattora per dipendente, arriva agli 8000 nel 1950. E quindi grosso impegno di energia, il che spiega anche la necessità di costruire la centrale idroelettrica nel 39 assieme alla SADE. Arriva la seconda guerra mondiale, le smalterie contribuiscono alla produzione di guerra, ma la seconda guerra mondiale significa anche distruzioni e comunque messa fuori mercato di molte produzioni. le smalterie di sale non vengono distrutte grazie anche all'azione del Consiglio di Fabbrica, che evita che i nazisti in ritirata mettano bombe, minino lo stabilimento. La ristrutturazione dopo la guerra arriva, è una ristrutturazione importante, sono macchinari che poi resteranno nei decenni successivi, ma arriva grazie a investimenti agevolati. I prestiti del piano Marshall sono fondamentali per le smalterie. C'è una pressa clearing che appare in molte fotografie, che è direttamente acquistata con il denaro del piano Marshall, ma addirittura intere linee di prodotto, intere linee di montaggio vengono costruite grazie ai prestiti agevolati. In particolare apparecchiature di riscaldamento industriale, quindi grandi radiatori, e apparecchiature per il refrigeramento industriale. Beh, viene anche costruito il nuovo impianto a Milazzo, in Sicilia, dove si fanno vasche da bagno nel 1951 grazie ai fondi appena stanziati della Cassa per il Mezzogiorno. Quindi l'espansione e la ristrutturazione delle smalterie dopo la guerra fondamentalmente gode di finanziamenti che non mette direttamente l'imprenditore, ma arrivano da prestiti agevolati. Nel nuovo contesto, per un contesto democratico, si avvia anche una forte distensione con il sindacato, il cui peso ovviamente comincia a farsi sentire. Col fascismo il sindacato era quasi inesistente. Nel 1947 si fa un accordo per i prezzi di produzione, dal 1948 l'azienda stabilisce una relazione privilegiata che durerà fino agli anni 60, fino alla fine degli anni 60, con quella che si chiamava Libera CGL nel 48, che diventerà la CISL, sindacato cattolico maggioritario a lungo in azienda. Tra il 52 e il 53 avviene una prima svolta, che non viene dalla famiglia imprenditrice, ma viene da quel management che la famiglia aveva saputo dosare nelle sue componenti. Nicolas Lesle muore nel 52, Ugo Sotter non muore nel 53. L'azienda resta decapitata di fatto. Chi viene a sostituirli? Il nuovo direttore amministrativo si chiama Victor Caspar, di nuovo amico di famiglia, che ha una storia interessante. Lui è tedesco, ma è stato messo dai Dresden a dirigere l'impianto di Rostov, quello in Unione Sovietica. Arriva direttamente dall'Unione Sovietica, ha un'esperienza di economia totalmente programmata, pianificata. Il direttore tecnico è il fratello di Nicolas Lesle, Mattias, e il direttore aziendale viene chiamato Giuseppe Santasilia, di famiglia nobile tra l'altro, da Napoli. Questo gruppo guidato da Caspar avvia dal 54 fino al 67, quindi nel periodo del boom economico, di un boom economico allargato, imponenti investimenti nella razionalizzazione e meccanizzazione dei reparti, catene di montaggio per ogni prodotto, fordismo, ovvero scomposizione del lavoro, lavoro in catena, e anche razionalizzazione, quindi calcolo dei tempi, calcolo delle fasi, puntando ad aumentare la produttività, fondamentalmente la produttività del lavoro. Questa è la strategia che l'azienda segue negli anni del miracolo economico. Questa strategia funziona fino a quando dura il miracolo, fino a quando il mercato è in espansione, mostrerà la corda nel momento in cui arrivano le prime difficoltà. August Westen, che è lì dal 25, dal 24, muore nel 1960. E gli succede non il figlio che non aveva, ma il nipote, figlio del fratello Peter, quello di cui c'è la statua in Polonia e che stava a Celje in Boemia, che si chiama Karl Hermann. Karl Hermann, anche lui, è una storia affascinante, in Estera era una storia di famiglia affascinante. Vive in Austria, si laurea a Vienna, ma fa parte dei gruppi di studenti filonazisti che invocano l'annessione alla Germania nazista nel 38. Poi si sposa con una nobile dell'impero asburgico, ma ungherese, e durante la guerra, e viene sostanzialmente mandato dalla famiglia in Italia per sfuggire a possibili processi per collaborazionismo in Austria. Karl Hermann arriva alla guida dell'azienda dopo esserci stato per molti anni affiancando lo zio, e si trova immediatamente a governare una situazione di difficoltà. La crisi congiunturale, quella del 63-64, la congiuntura si chiamava all'epoca, colpisce soprattutto l'edilizia. Perché? Perché abbiamo problemi di piena occupazione, cosa quasi impossibile da dire, da immaginare oggi. si sono interrotte le migrazioni da sud, i salari si stanno alzando e le aziende non riescono più a mantenere i profitti. Aumenta l'inflazione, per contenere l'inflazione la Banca d'Italia alza i tassi di interesse, classica manovra che si fa in quei casi, ma alzando i tassi di interesse chi deve fare un mutuo per comprare una casa? No, no, è il classico meccanismo. Quindi il primo settore a essere colpito da quella crisi è l'edilizia e di conseguenza i settori collegati all'edilizia e le aziende collegate all'edilizia come le smalterie. Però il problema delle smalterie è più ampio. Ci sono quei nuovi produttori specializzati di elettrodomestici che sono fioriti negli anni del boom, sono i veri imprenditori che fanno il miracolo economico, che stanno mettendo fuori mercato tutte le fabbriche generaliste come le smalterie. Le materie stampano tutto, loro all'inizio se ne servono e poi invece cominciano a farsene da soli. Inoltre il problema maggiore riguarda le pentole stampate, le pentole smaltate. Negli anni 60 comincia una doppia concorrenza, ci sono fabbriche in Italia che sono state assorbite dall'IRI che cominciano a praticare una politica sotto costo, tanto paga lo Stato, e che fanno concorrenza dal punto di vista delle smalterie reali sul mercato italiano, e contemporaneamente i primi accordi commerciali con il Comecon, con i paesi dell'est, permettono a tutte quelle fabbriche che erano degli est ma sono state nazionalizzate di cominciare a esportare in Italia a costi del lavoro sfasati dal tasso di cambio tutto politico con i paesi dell'est, pentole che vanno a concorrenza con le smalterie. Allora, questo spiega perché la strategia di Caspar sulla produttività del lavoro e gli investimenti tecnologici, il centro contabile dell'IBM, non funziona per ristabilire la competitività dell'azienda. Bisogna cambiare strategia, non è abbassando i costi, anche riducendo a zero i costi di produzione delle pentole, le smalterie non riuscivano a stare sul mercato contro i concorrenti est europei e pubblici. Allora, Karl Herman propone a un Caspar ormai vecchio di provare a distinguere. Proviamo a vedere se il problema non sta nella rete di distribuzione. Nel 65 si istituisce la Commerciale Smalterie, con sede a Milano, ma che gestisce tutta la rete di distribuzione in maniera separata. Fanno lo scorporo fondamentalmente. E diventa una società per azioni separata, un po' quello che succede oggi Benetton, separazione netta delle società in base alla loro funzione. E questo tentativo viene completamente a fallire in seguito al fatto che nel 1967 muore Caspar. Caspar muore, non aveva voluto la commerciale. Karl Herman Westen si rende conto del fatto che la strategia di aumento della produttività con razionalizzazione non funziona e decide di passare a una strategia che prevede individuare quali sono i prodotti che non possono stare sul mercato e proviamo a chiudere qui le parti. Per fare questo, per la prima volta nella tradizione di famiglia, che aveva sempre chiamato manager amici di fiducia, viene assunto un manager che non c'entra fondamentalmente con la famiglia, si chiama Amedeo Cuminati ed è famoso in regione perché è riuscito a ristrutturare, per usare un eufemismo, ovvero a licenziare metà dei dipendenti della Pellizzari di Arzegnano, riportando l'azienda a essere competitiva. Viene assunto per quello che sa fare, cioè i Westen vogliono fargli fare esattamente la stessa cosa, in particolare vogliono fargli chiudere il reparto stoviglie, le pentole, dove lavorano 500 con i dipendenti collegati, soprattutto donne. La proposta di Cuminati è persino moderata a vederla oggi, 50 licenziamenti e 80 esuberi da mettere in cassa integrazione e poi spostare in altri reparti. Il sindacato insorge, siamo nel 1967, inizio 68, quindi il sindacato è forte, è unito, CGL, CISL e UIL sono unite e la pressione si fa tale che il comune di Bassano riesce a far intervenire il governo. Il governo interviene nella persona di fiducia dell'amministrazione che è Mariano Rumor, all'epoca segretario credo della Democrazia Cristiana, che riesce a intervenire sul governo per far anticipare i rimborsi per l'alluvione del 66, altre cose che ci suonano investimenti all'azienda, in cambio della totale rinuncia a licenziamenti ed esuberi, cioè mantenimento pieno dei livelli occupazionali. L'azienda accetta, ma su questo ho già discusso ed è una questione forte, importante, però in quel momento i Destin, a mio parere, giungono alla conclusione che in Italia non hanno il controllo della forza lavoro, non possono permettersi di licenziare. Ed è in quel momento che prendono la decisione di cominciare a disimpegnarsi. In seguito all'accordo, Cuminatti si mette, perché è ovvio, lui era stato assunto per fare una cosa, gli si dice: guarda, siamo messi d'accordo, non si fa più, lui dice, allora me ne vado, si mette con abbondante liquidazione. A questo punto avviene una nuova successione manageriale e il vecchio ormai Carl Herrmann prova a usarla per tentare di separare proprietà e management. Cioè l'idea della proprietà è: va bene, abbiamo capito che la politica ci dà incentivi per non fare quello che come azienda dovremmo fare, va bene, allora proviamo a staccare, proviamo a dare più autonomia al management e a prendere un management molto più integrato. Cioè proviamo ad accettare una svolta politica nella governance dell'impresa in seguito all'avvertenza del 68. Nel 71 viene chiamato a fare l'amministratore delegato, nessuno c'era mai stato un amministratore delegato prima, e il direttore generale, pieno di potere, Mario Emanuele Bianchetti, manager laureato in Bocconi con forti legami politici con la sinistra democristiana. Quindi un manager in qualche modo più politico rispetto ai precedenti, meno tecnico. Bianchetti ha una strategia molto complessa. Intanto la sua idea è: si mette a posto l'azienda comprando altre fabbriche che lavorano in settori che erano, se siamo posizionati male sul mercato, le stoviglie sono un peso che ci dobbiamo portare dietro, proviamo invece ad allargare, a compensare con elementi che erano dentro lo stesso ambito tecnologico. Di tutti i prodotti e le batterie, quello che funzionava meglio all'epoca erano le vasche da bagno. E compra la smalteria abruzzese a San Buceto in joint venture con la Zanussi. Costruisce anche la Zarpa a Pove, quindi è una fase in cui l'azienda fa molti investimenti. Va detto che con la Zanussi, perché con la Zanussi? Perché con la Zanussi i Western avevano già una joint venture, che invece è il primo passo della proprietà per cominciare a mettere un piede fuori. In Spagna si chiama Ibelsa, anche quella fa vasche da bagno. La Spagna è ancora una dittatura, c'è Franco, problemi con i sindacati, non ce ne sono. La joint venture è il modo privilegiato per entrare in quella situazione. I soci sono Zanussi, smalterie e una banca locale che di solito è un gruppo bancario. In Spagna non c'è una separazione all'epoca tra banca e industria, per cui le banche possiedono molte aziende, quindi molto spesso i fornitori sono proprietà dell'azienda, della banca che è socia dell'azienda. Allora, questo è il primo tentativo di Bianchetti. Secondo tentativo, bisogna rimotivare non solo i manager a livello di vertice, ma anche i quadri intermedi, e organizza grandi convegni a Ledico e chiama consulenti esterni per fare una sorta di revisione, auditing di come funziona l'azienda a tutti i livelli, anche all'interno delle parti. Fa partire, per questa sua politica, che è una politica che costa, richieste di crediti agevolati allo Stato. La sua idea qual è? In questo momento la lira ha svalutato, nel 71 crolla il sistema basato sui cambi fissi col dollaro, la lira comincia a svalutare. Lui dice: siamo in un momento in cui le esportazioni vanno bene, se io posso investire posso sfruttare questa ondata. Quindi chiede allo Stato investimenti agevolati per allargare la produzione, richieste che non hanno successo. Ha successo invece il tentativo di mettersi d'accordo con i sindacati. Cuminatti aveva fatto una strategia di rottura, Bianchetti invece tenta di giungere a un accordo. Lo raggiunge nel 73, i sindacati accettano di mettere in cassa integrazione 500 operai, insomma, più di un terzo dei dipendenti, fino al 76. Quando Bianchetti promette: avremo recuperato, grazie agli investimenti, la possibilità di dare lavoro a tutti. Nel frattempo lasciatemi non ristrutturare l'azienda. Quindi il sindacato ci crede e accetta. In più, l'amministrazione Bianchetti dell'azienda stabilisce un rapporto di fiducia con l'amministrazione municipale. Uno dei dirigenti dell'azienda, Giacomo Mattarolo, è anche assessore al personale dentro l'amministrazione di Bassano. In ogni caso è una fase in cui l'azienda dona, per esempio fa costruire la chiesa, poco prima aveva fatto costruire la chiesa di San Marco che giunge a completamento in quegli anni, quindi è una fase di buon rapporto con l'amministrazione municipale. Funziona la strategia di Bianchetti? Secondo lui sì. Cosa usa per misurare il suo successo? Non più kilowattora per addetto, misura ingegneristica da anni 50, ma il fatturato per addetto. Il problema è vendere. E il fatturato per addetto dà l'equivalente di 45 milioni di euro, 45 euro per dipendente nel 45 euro per dipendente nel 65, arriva a raddoppiare nel 75. In 10 anni, sono euro 2012, quindi al netto dell'inflazione, in 10 anni raddoppia, se vogliamo, la capacità di fatturare, di produrre per testa dell'azienda. Va detto che i sindacati dicono sì, Bianchetti vende un po' di fumo, ha bloccato le assunzioni, quindi è ovvio che il livello dei dipendenti resta fermo, e l'azienda ha cominciato a fare moltissima intermediazione commerciale, cioè compra delle cose già fatte per rivenderle ad altri. Questo aumenta il fatturato, ma non è che stiamo lavorando per farle, è soltanto un giochino fatto per aumentare il fatturato che non dà nemmeno troppo profitto. Allora, comunque, Bianchetti qualche speranza la suscita. Nel 73 però, e qui purtroppo do anche, come dire, qui i punti di vista cominciano a divergere, qui diventa complicata la situazione. Nel 73 muore Carlo Ermanno, l'uomo che aveva dato pieni poteri a Bianchetti, qui uso le parole di Bianchetti nell'intervista, diciamo. E i figli, Carlo e Peter Westen, riprendono in mano le redini dell'azienda. Quindi invertono l'idea di che piano piano la proprietà si allontana, riprendono in mano le redini dell'azienda. 73 non è un anno liscio e facile. Crisi petrolifera, il petrolio aumenta di 4 volte il suo prezzo, inflazione, reazione con restrizioni creditizie, perché bisogna più bloccare questa inflazione in qualche modo, ma anche scioperi degli operai per adeguare i salari all'inflazione. Le restrizioni creditizie hanno il solito effetto di fermare l'edilizia e contemporaneamente i costi salgono. A quel punto i Westen, i due fratelli Westen, decidono di scegliere la prima opzione che il padre aveva deciso, ovvero proviamo a portare via i soldi. Fondano nel 73, nel 74 una nuova holding che si chiama Intersa, con capitali delle prime due, che però serve esplicitamente a, nella ragione sociale, investimenti in aziende produttrici di beni di consumo. Quindi proviamo a comprare altra roba con i soldi che vengono dalle smalterie. Nel 74 Bianchetti, di fronte a questa svolta, si dimette, anche lui era stato assunto per fare una cosa, non la può più fare, se ne va, e arriva una nuova successione manageriale. Chi scelgono i fratelli Westen? Paolo Alberto Colombo. Colombo era direttore della Pace Standard, filiale italiana di una multinazionale americana che aveva chiuso la filiale italiana. Quindi se uno va a vedere da dove viene il manager, a partire almeno dagli anni 60, sa cosa vogliono fare i proprietari. Nel 74 scoppia un durissimo conflitto con i sindacati, che ottengono aumenti salariali fortissimi, in linea con l'inflazione, ma pesantissimi per l'azienda. Però la cassa integrazione da 500 si allarga a 700, il blocco delle assunzioni viene confermato e addirittura i Westen denunciano gli operai per aver strappato, aver rivendicato e fatto pratiche di blocco dell'azienda contrarie al contratto nazionale. Quindi li portano in tribunale, cosa che di norma nelle vertenze delle relazioni industriali non accade. In questa fase c'è chi dice i fratelli Westen sono inesperti e si fanno molto consigliare dell'Associazione Industriale di Vicenza, che a sua volta sta usando un po' le smalterie come testa di ponte per sperimentare dove si può arrivare. Quindi un po' la tienda diventa anche un esperimento. Nel 22 dicembre del 75 si riunisce il consiglio di amministrazione famoso che decide la liquidazione dell'azienda e il licenziamento di tutti i dipendenti. Dicevo prima, motivo portato nel verbale del consiglio di amministrazione è aumento del costo del lavoro al di sopra di ogni livello tollerabile, tanto che i costi hanno, le perdite hanno esaurito le riserve e mangiato il capitale sociale. I soci dovrebbero immettere nuovo capitale, fare un aumento di capitale, si rifiutano, di conseguenza l'azienda va in liquidazione. Conseguenza, lettera di licenziamento, va in liquidazione, non fallisce. E questo è il grosso punto per cui durante l'emergenza gli operai saranno costretti a rinunciare alla liquidazione per dichiararsi creditori chirografari e far fallire l'azienda, così da poter far intervenire lo Stato e avere la cassa integrazione, che è una rinuncia. Si dice, allora sono stati gli operai per fallire l'azienda, sì, hanno rinunciato alla liquidazione pur di far stare in piedi la fabbrica. La cosa interessante è che nel 1980 l'inchiesta di il libro bianco del Ministero delle Finanze mostra che nel 74 e nel 75 ci sono stati falsi in bilancio. Ovviamente il Ministero delle Finanze cerca perdite che non ci sono state, che sono evasione fiscale, ma qui è chiaro che il motivo non è evadere le tasse, il motivo è uscire da una situazione che per i Vesten era giudicata insostenibile, portando una giustificazione formale alla liquidazione. Arrivo alle conclusioni, sono quasi stato nel 45. Allora, prima di tutto due evidenze storiche a sostegno di quello che sono venuto dicendo qui. La strategia di disinvestimento che io ho chiamato così, che prima Karl Herman e poi Carlo Peter Vesper adottano, è comprovato dal fatto che i capitali che si dice siano andati in perdite in realtà vengono trasferiti alle holding in Liechtenstein. Quindi c'è una vera fuga di capitale. I Vesten spostano i loro capitali all'estero, cosa illegale all'epoca perché non si poteva trasferire, proprio per motivi di preservare la stabilità del cambio non si potevano spostare i capitali fuori, ma anche parte dei macchinari di Bassano a partire dal 68 cominciano a essere trasferiti, si trasferisce tecnologia in senso fisico, cioè si portano le macchine in Spagna e non ci sono ancora perché poi sono stati sostituiti, ma alcuni macchinari di Bassano sono venuti in Spagna. Primo punto. Secondo punto, cosa succede dopo? Lo dico molto rapidamente. Lo stabilimento recupera perché Zanussi, che aveva la joint venture su San Buccetto in Abruzzo ed era l'unico pezzo dell'azienda che funzionava bene, tenta di prendersi quel pezzo. Lo Stato dice no, cioè, abbiamo un'azienda che sta fallendo, non è capace di pagare i creditori, gli operai hanno già rinunciato alla liquidazione e tu vuoi prendere l'unico pezzo che funziona, ti prendi tutto, anche a zero lire, ma ti prendi tutto. La Zanussi accetta, quindi interviene la Zanussi alla fine del 76 che pone come condizione per accettare la ristrutturazione che lo Stato finanzi in toto la costruzione di un secondo stabilimento, quello che oggi è la IARA che fa congelatori. Per qualche anno attuale IARA e attuale Maxi stanno dentro lo stesso grande gruppo che era Zanussi, poi nell'83 in vista della cessione all'Electrolux Zanussi fa pulizia e vende la IAR, quella che oggi è la IAR, e nell'86 sarà l'Electrolux, cioè forse già la Zanussi, non ricordo questo, vende anche lo stabilimento originale della smalteria, la Origin, che poi venderà alla Baxi. Cosa succede però? Questa ristrutturazione viene pagata dallo Stato, sono decine di miliardi che vengono usati per riportare l'azienda a produrre qualcosa che può stare sul mercato. Questo prova che era necessario una radicale ristrutturazione dell'azienda, non era un'invenzione dei Vesten, anche se i Vesten a mio parere nella loro gestione soffrono di miopia. Provo a spiegare perché. Beh, intanto altro elemento che viene fuori bello, interessante per gli storici dell'impresa di questa storia, il falso in bilancio può essere usato per scopi strategici e non solo di bassa cucina come l'evasione fiscale, cioè per uscire da una situazione Italia, perché per il resto è il paese Italia a rischio, insostenibile. Perché dico che per il resto è il paese Italia a rischio? Perché questi qui hanno memoria di una decina di fabbriche che gli sono state espropriate. Quindi quello che sta succedendo in Italia negli anni 70 per loro è un film che gli ricorda qualcos'altro. Quindi la paura dei western non è completamente ingiustificata, visto la loro esperienza. E qui viene fuori l'idea che le aziende, questa è una multinazionale ma a guida familiare, hanno una memoria più lunga che può essere utile in alcuni casi, ma può essere anche fuorviante in certi anni. In ogni caso, la strategia di disinvestimento viene accelerata dalla morte di Calderon. Quindi, successione imprenditoriale in attesa, non è che Calderon fosse malato, muore improvvisamente, in una fase in cui si stava gestendo la presa di distanza. Altro elemento importante, sto tirando le fila, il fatto che piano piano nel corso del dopoguerra la famiglia cambia il modo in cui sceglie i manager, questo è interessante, da uomini di fiducia a uomini che sanno fare quello che secondo la famiglia bisogna fare, quindi uomini adatti alla strategia che però continua a essere fissata dal proprietario, non è una vera e propria managerializzazione. Chiudo provando a rispondere alla domanda di base, perché le smalterie falliscono? Non falliscono nel senso materialmente dalla liquidazione al fallimento, perché non stanno in piedi? La mia opinione è appunto che ci sia anche un lato di miopia, di mancato riconoscimento delle opportunità di sviluppo e una forte incoerenza tra come interpretano e vedono la realtà la famiglia proprietaria, i manager. Tutte queste sostituzioni dicono che la strategia viene continuamente aggiustata, ma anche che non si va completamente d'accordo. I sindacati, che rappresentano la forza lavoro, negli anni 60-70 i sindacati decisamente rappresentano la forza lavoro, e la politica. Ognuno ha una visione di cosa è, cosa deve fare e a cosa serve l'azienda, che è diversa. In tutto questo la famiglia proprietaria si distingue per una specie di ossessione per il costo del lavoro. Anche questo non è così nuovo come ossessione, che riporta a non vedere il fatto che quello che li rende non competitivi non è il costo del lavoro. Io posso pagarli la metà, gli operai che fanno le pentole, le operaie che stanno alla catena delle pentole, ma non riesco a stare sul mercato contro le pentole importate dai paesi dell'est, ma non perché quelli lavorino a basso costo, perché i paesi dell'est hanno un cambio con i paesi occidentali che è fissato politicamente, un accordo politico in cui gli dico questo marco tedesco dell'est vale tot, ma viene fissato politicamente. Guardate, per citare il peccato e non il peccatore, come dire, oggi il rapporto tra l'euro e le monete dei paesi che fanno parte della comunità europea, dell'Unione Europea, ma sono fuori dall'euro, Polonia, Serbia eccetera, è molto simile. Quindi il problema non sta tanto nel fatto che quelli vengono pagati davvero meno, vengono pagati meno, ma soprattutto la loro moneta ha un rapporto di cambio sfasato. Allora, questa ossessione per il costo del lavoro riporta a non vedere che il vero problema è la specializzazione. Le mezze dei produttori specializzati nei beni per la casa, la segmentazione del mercato, l'obsolescenza dei produttori generalisti. Questo era già evidente nel 63, se vogliamo. Arriva il 68 per capirlo, per provare a farlo. Quando ci provano non ci riescono, perché la politica dà incentivi, se vogliamo, distorti, e a quel punto decidono di andarsene, ma se ne vanno dove? Dove il costo del lavoro è più basso. Allora, su questo si può anche tirare una conclusione più generale, cioè questa è la cosa di interpretazione, il fatto che il costo del lavoro sia l'unica leva di competitività può essere giudicato tipico di aziende che operano in settori presunti maturi, e pensare che già allora quel settore fosse presunto maturo, a pensare, e operano a livello internazionale. Per cui a quel punto si spostano dove presumono che il costo sia più basso, senza tener conto di tutti gli altri fattori che li costringeranno a spostarsi in continuazione. E questa è la storia di molte delocalizzazioni. Detto questo, spero che alla prossima non venga in mente chiudo e vi ringrazio per l'attenzione.